Ciao amici di Runtime Radio, torniamo da dopo tantissimo tempo. Io sono Simone e con me c'è Michela De Paola. Bentornati a Everything, che è la trasmissione che parla un po' quello che faceva una vecchia, vecchissima trasmissione tanto tempo fa, cioè parla un po' dei cazzi nostri, no? Però poi dopo alla fine noi osserviamo pure quello che è intorno a noi. E siccome che io e Michela, quando la sera siamo, che ne so, davanti al telegiornale o Alexa ci dice le notizie, ci viene la basiscienza. Cioè, mamma mia, ci viene il mammadrone, lo sconforto, più totale. Lo sconforto più totale. Allora che abbiamo deciso di fare? Abbiamo detto, vabbè, ma sto sconforto, invece di tirarcelo addosso tra di noi, no? Perché non riprendiamo, insomma, vecchi fasti, vecchie trasmissioni? Io faccio un piccolo disclaimer veloce. Io di questa puntata non so niente, perché ha preparato tutto Michela, quindi faccio un po' una sorta di simpatico cialtrone. Però lo dico subito, perché c'è stata una sorta di discussione all'interno di Runtime Radio. Noi vogliamo fare programmi così, ma no, dai, che la frega, gente, ne frega niente. No, noi vogliamo fare programmi così. E per farvi capire che tipo di programmi vogliamo fare, Michela, lanciamo subito il primo brano, così lo capite al volo. E poi dopo, se vi interessa, bene, se no, ve ne potete tranquillamente andare. Giusto, Michela? Giustissimo. Quindi vado col primo brano. Yes. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir e seppellire lassù in montagna. Ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fior è questo fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo fiore del partigiano morto per la libertà. Oh, benissimo, allora partiamo con questo brano, così per far capire, insomma, un po' il tenore di quello che vorremmo fare, insomma, con questo programma. Che poi, tra l'altro, questa è la versione utilizzata nella sigla della Casa di Carta, che non abbiamo ancora visto, Michela. Sì, in realtà dovremmo vedere, però abbiamo una lista di serie televisive da vedere veramente lunghissima, non ce la faremo mai, ma poi ci proveremo. Però questa l'abbiamo vista perché è successo qualcosa, sta succedendo qualcosa nel mondo in un modo brutto proprio. Nel mondo sta succedendo qualcosa o sta succedendo qualcosa che ci porta indietro, perché a Verona, facciamo proprio l'incipit, ieri si è svolta una delle manifestazioni, diciamo così, dei congressi più veramente più medievali, sì, medievali. Medievali. E io infatti, cioè, volevo citare, ho visto la gente con la Madonna in braccio, donne, sì, con la Madonna in braccio, sì, è una cosa che non penso, sì. Purtroppo Verona, cioè, non a caso, perché magari il Veneto è una città, è una regione, scusate, è una regione molto, diciamo così, non notoriamente di sinistra, non notoriamente ospitale, però ho ospitato molto spesso questi. Salutiamo tutti gli amici del Veneto che ci ascoltano. Ciao amici del Veneto, lo sapete pure voi, quindi non vi dobbiamo di niente. Io ho cercato, no, di capire perché proprio è stata scelta Verona e mi sono resa conto che Verona è stata è scelta per altri congressi, e la descrizione di uno di questi congressi che si è svolto nel 1822, la citazione, comunque la descrizione di Beltrame mi ha riportato comunque allo stato attuale, perché non era mai veduto in Europa una ugual fitta di corone di intelligenze congiurate contro il diritto dei popoli. Le cose in quel congresso pubblicamente trattate furono la tratta dei negri, la rivoluzione di Grecia, la rivoluzione di Spagna, ma in sostanza lo scopo era di rafforzare i vincoli della Santa Alleanza, e vabbè, poi eccetera eccetera eccetera. Però insomma, diciamo che quando ci stanno da fare le cose brutte e poco edificanti, la notte a Verona, insomma, bah, no, vabbè, comunque diciamo che noi già vediamo da un po' di anni, vediamo questo un po' questo rigurgito, sì, delle famiglie, che poi nel contesto del credo di una singola persona ci può stare che uno esprime magari le sue posizioni, le sue considerazioni, e magari si opponga anche, perché voglio dire, non è che tutti possano e debbano essere necessariamente d'accordo, anche se per una stragrande maggioranza di persone che magari utilizzano un certo tipo di intelligenza, diciamo che certo tipo di acquisizione dei diritti è una questione di stato civile. Il problema però non è opporsi o non essere d'accordo o pensare che Dio si arrabbia perché che noi facciamo queste cose, Michela, ma è l'estremismo, il fideismo, quasi il modo invasato col quale questa gente sta portando avanti questo messaggio, no? Abbiamo visto delle cose brutte, tipo il portachiavi. Il portachiavi fatto a Fedo di bambino. Così. È veramente. Che pure la Mussolini si è incazzata. Sì, cioè, sì. Ragazzi, no, vabbè, ma la Mussolini si è incazzata, che poi ci vorrebbe un diciamo così, un reperto audio, perché comunque ha risposto con: allora mettete i portachiavi a forma di scroto. Vabbè, ma cioè, veramente una vabbè, cosa, ma che ti aspetti da Mussolini? Sì, è una cosa in vereconda. Però era una provocazione, però era un po' assurdo. Era una provocazione che tutto sommato, incredibilmente, diciamo che è una manifestazione che ha orripilato, e questo veramente ci deve far capire come stiamo messi, sia la destra che la sinistra. Intanto è arrivata Maria Vina, che praticamente ho costretto ad essere in chat. Bene, brava Maria Vina, brava, brava. Ma che poi, cioè, se uno pensa un attimo alla cosa, cioè l'accanimento con il quale cercano di portare avanti determinate tesi e andando contro, cioè nel senso, loro dicono: noi non vogliamo esprimere la nostra considerazione contro o la nostra opinione che non è, ma noi vogliamo proprio vogliamo dire che noi, i gay ci fanno schifo. Questo mondo arbitrariamente, diciamo così, fa finto, perché poi ti batti il petto in chiesa e poi come vabbè, questo non è che possiamo sapere quello che fanno gli altri, però ce l'hanno con i gay, ce l'hanno con le famiglie innaturali, che ancora bene, bisogna un po' capire un attimo che cosa significa. Sì, poi vabbè, c'è anche, perché io conosco tanta gente che è stata cresciuta da mamme o da magari è che sono cresciuti col padre o con lo zio, perché purtroppo con circostanze non hanno avuto magari altre situazioni. Anche noi siamo una famiglia non naturale, però comunque ci siamo incontrati. Ma noi del naturale sicuramente non c'abbiamo niente, però insomma, vuoi dire, è questo accanimento ideologico, quasi oltransistico, verso qualche cosa che tu non capisci e quindi non puoi tollerare. È veramente un ritorno alla visione fideistica di Dio, come veramente come mille anni fa. È una cosa incredibile, cioè l'immagine di quella con la Madonna in braccio, una signora triste, con la Madonna in braccio, che comunque parlava in modo molto dolce, dicendo, mortacci sua, scusate la romanità, no, che no non povera per niente, che comunque i gay erano qualcosa di naturale e che avrebbero comunque dovuto pentirsi perché sarebbero finiti all'inferno. Io, signora mia, diciamo che vergogna, dite quello che dici. Ma poi c'è, cioè, quello che non riesco senza a capire. Che la Chiesa ha detto che l'inferno non esiste. Sì, io spero, non sono riuscita, ho cercato documentazione ma non sono riuscita a capire se la Chiesa si è in qualche modo, secondo me la Chiesa non si è espressa, tirata fuori da tutta sta storia, ma lo spero vivamente, insomma, perché non è, cioè, salutiamo anche Gusella che è in chat, no? Tanto voglio, adesso se ne va, sì, tanto non ci ascolta perché però dico cioè, no, la Chiesa secondo me non si è espressa, c'è una questione più politica che poi magari affronteremo piano piano. Io non so come l'hai preparata la scaletta, però sappiamo ad esempio che all'inizio c'era il marchio del governo su questa manifestazione. All'inizio e soprattutto c'è ancora il marchio del governo, perché comunque nonostante il presidente del consiglio gli sia stato impedito di partecipare, perché probabilmente lui si sarebbe tuffato dove c'è Caciara. No, basta, no, che il marchio del governo l'hanno rilevato. Ma il ministro Fontana era presente. Sì, sì, vabbè, però ma io parlo proprio di ufficializzare logo ufficiale del governo, che poi ministro, sarebbe stata una cosa grave. Perché, ma cioè, un ministro del governo che partecipa comunque a una cosa, a una manifestazione del genere, è comunque una beh, diciamo che cioè, questa è colpa di tutti quegli stupidi che hanno votato qualche cosa, pure persone che non conosciamo, che purtroppo sì, quando li incontriamo non possiamo dire siete stupidi, però lo sapete, insomma, che siete stupidi, e questa è la vabbè, cosa. Avete voluto il Movimento 5 Stelle, mo' va attaccato a che poi, come abbiamo detto anche in OGM, il Movimento 5 Stelle che non ha fatto altro che fa propaganda per la Lega, cioè, ma nel no senso, ma il problema di un movimento del genere, come tanti altri movimenti che si sono diciamo così evoluti nella storia, che si sono presentati nella storia, metti, non mi ricordo come si chiamava il movimento di Di Pietro. Il movimento di Di Pietro, vabbè, non posso vabbè ricordare il movimento. Il partito di Di Pietro, comunque, che è un partito che è nato dal basso, eccetera, bla bla bla bla bla, bla, ha portato dentro personaggi come Scillipoti. Vabbè, o ma quello purtroppo succede quando tu fai una cosa che devi, cioè, ti serve numero. Come, sì, è come a Michela che la chiamano e gli dicono: oh, ti vuoi candidare sì, con i Verdi? Ma chiesto anche a me di candidarmi con i Verdi. Ti vuoi candidare con i Verdi? E poi magari dopo, quando andava là, voleva, che ne so, voleva la costruzione del cemento, magari, no? Perché poi insomma. Ecco, brava Maria Pina, Italia dei valori, ci abbiamo Italia ragione. Dei, brava Maria Pina, tu, perché Maria, tu eri Marina Pina, tu eri, ti eri, secondo me, una fan, facevi parte del fan club dell'Italia dei valori. Bene, bene. Io direi, intanto andiamo con una musica, canzone. Musica, la musica, okay, che ci aiuta sempre. E partiamo, insomma, col primo brano. Perfetto. Che poi dopo diciamo che cos'è, insomma, così, perché sì, lo disannunciamo, ci piace più partire come si deve, insomma. E quindi ci ascoltiamo fra qualche minuto. Running through my veins. ever noticed. I've been ashamed all my life. I've been playing games. We can try to hide it. It's all the same. I've been losing one day at a time. Iniziamo proprio bene con questa playlist, con una cosa micidiale. No, è una canzone bellissima, una canzone di Michael Kinauka. Sì, vabbè, ma... che è praticamente la colonna sonora, la sigla di una bellissima serie che si chiama Big Little Lies, di cui mi sembra che adesso ci sia in corso la trasmissione della seconda stagione, ma non avendo più Sky, ragazzi, se mi mandate, no, non si mandano niente. Comunque, Cold Little Heart è il titolo della canzone, che è una canzone da pomici, cioè te metti là e pomici, cioè non è che puoi starla a fare sentire per radio più de, perché dura ancora. No, c'è un bellissimo video nella sigla, c'è un bellissimo video che fa vedere veramente questa macchina che viaggia sulle coste della California, veramente bello. La serie va vista, ragazzi, veramente molto molto bella, molto femminile, quindi so che voi siete un po' misogini, però women rules the world, come si dice a casa mia. Mamma mia, vabbè. E vabbè, questa canzone che dura ancora un minuto e passa, e quindi la lasciamo andare, che ci parliamo sopra, che tanto è la stessa cosa. E torniamo al nostro argomento preferito, che è insomma questo fantastico congresso di Verona, che però ha lasciato parte della popolazione, secondo me la metà della popolazione, è basita. Sì. E poi si è anche creato problemi nel governo, perché nel governo c'è chi dice ma è veramente una cosa da primitivi medievali. Ma nel governo ci andiamo dopo. Adesso parliamo di tutta quella gente fantastica, bellissima, stupenda, che in qualche modo ha voluto contro manifestare, che si è presentata a Verona in piazza di fronte alla gente che entrava dentro questo congresso e che partecipava al congresso, che praticamente ha manifestato diciamo così a sfavore di questa manifestazione. Tra l'altro io poi il popolo di Instagram ormai è diventato casa mia, perché sto sempre su Instagram, mi piace tantissimo. Sì, anche un po' inquietantemente. Potresti anche renderlo più produttiva sta cosa. C'hai ragione, anche tu hai ragione, ma mi vergogno un pochetto, però vabbè. Il popolo di Instagram ha fatto vedere quanto ci stanno persone molto vendute e persone che sono rimaste ancora fedeli al, diciamo così, a loro stesse. Vabbè, senza considerare che c'è di mezzo gente divorziata, con figli illegittimi, ma questo oramai quello no, che ci siamo resi conto. Ho potuto vedere da alcune diciamo così, da alcune famiglie presenti su Instagram o comunque da alcuni blogger, proprio la partecipazione alla contromanifestazione di Verona, quindi poi ho parlato anche con un'antropologa che mi parlava di, del fatto che quando sente nominare, diciamo così, la il concetto di famiglia naturale gli vengono un po' i brividi, perché comunque la famiglia naturale in realtà non esiste, perché poi è quella che si costruisce culturalmente, diciamo che profonda. Sì, poi su questo tipo di argomenti li faremo, no? Faremo puntate, sì, proprio dedicate, sì, anche con persone e specifiche. Una star indiscussa è la signora affacciata al balcone con un sorriso bellissimo, che praticamente aveva evidenti problemi di deambulazione, quindi non poteva partecipare al corteo, ma ha voluto esporre un cartello con scritto "non cammino ma vi sono vicino". È diventata praticamente il simbolo di tutte le persone che hanno manifestato contro questo scempio, che io veramente non riesco a capire come è possibile. Tanti influencer anche, insomma, che poi di solito, sai, sono quelle cose nei quali in quest'era di YouTube e di Instagram di solito non si espone quasi mai nessuno su queste cose, no? Perché tutti vogliono tenere i propri, sì, fan, no? Sì, tutti, ma infatti si è visto quali, diciamo così, che è un mondo un po' particolare, che in Italia poi sta nascendo e sta prendendo forma adesso, e si vede chi vuole in qualche modo accontentare, diciamo così, la fetta politica, e quindi non esporsi troppo, e chi la fetta politica non gli interessa, e che anche dice vabbè, mi piace, faccio questo, però magari non è la mia vita, e quindi sì, anche se c'è un momento in cui io posso capire che tu non ti occupi di politica, che i tuoi fan, no, magari sono variegati, sono omogenei, c'è un momento nella vita in cui bisogna prendere una posizione, cioè, sì, di fronte a questo momento di grossa inciviltà dove qualcuno dice stiamo costruendo il futuro, a me sta cosa mi fa non venire i brividi di più, tra, no? L'altro io saluto i ragazzi della tenda al salotto, che sono una famiglia, cioè, sta gente che sta di Lecco, salotto, di Como, di Lecco, non mi ricordo esattamente di dove sono, che praticamente ha partecipato alla contromanifestazione, ha documentato la partecipazione alla contromanifestazione e si è esposta in primo piano, anche perché comunque è presa in causa come famiglia, diciamo così, che si è incontrata a metà strada come tante famiglie, che comunque è stato molto interessante seguire la contromanifestazione, la manifestazione con loro, e vedere anche lo stato, diciamo così, pacifico che regnava in questa manifestazione, e sono molto felice che non ci siano stati episodi di violenza o anche dipende. Non servivano in generale, sì, anche io non ma noi perché non ci siamo andati? Siamo vecchi dentro. Noi non ci siamo andati perché praticamente abbiamo pensato di... Allora, innanzitutto io non avevo capito che sta cosa si sarebbe fatta. L'ho capito tipo una settimana fa, 10 giorni fa, forse faticavo a crederci. E quando ho capito che questa cosa si sarebbe fatta, non sapevo che questa manifestazione, congresso, di scempio, eccetera, eccetera, mi sono resa conto che praticamente... c'era una contromanifestazione, me ne sono resa conto tipo giovedì venerdì scorso, quindi era troppo tardi. Allora abbiamo deciso io e Simone di fare noi, diciamo così, una sorta di omaggio a tutte le persone che hanno contromanifestato, facendo questa diretta, questo aperitivo con voi, insomma, anzi sganciate noccioline, porco Giuda, perché qua la birra ce l'abbiamo, ma le noccioline no, quindi poi le noccioline non ho ancora bevuto il mio zucchino che c'avevo, perché c'avevo la gola un po' arsa, però vabbè, e quindi tanto di cappello ai ragazzi, bravi, che hanno partecipato, bravi, ai ragazzi della tendenza Lotto, e tutti quelli che hanno partecipato contro manifestazione, hanno partecipato cantando una mattina, ecco, quindi, mi insomma, sono svegliato. Tu immagina che quelli là come gli prudevano le mani, perché secondo me molti di quelli gli prudevano le mani. A me mi piacerebbe sapere i numeri reali, però vabbè, non li sapremo mai. Ma soprattutto sti personaggi che hanno partecipato, cioè raga, veramente questi personaggi che hanno partecipato alla manifestazione, brutto, al congresso di Verona, c'è, cioè veramente brutta storia veramente. Ma sì, come ti sei sentito? Cioè, nel senso, anche i ragazzi giovani. Vabbè, di questo però, ecco, se vogliamo parlare un attimo del governo, sì, dopo, sì, le voglio dire, perché c'ho una cosa da dire dentro, sì, che ce l'ho, cioè, da veramente un sacco di tempo. C'ho un colpo in canna. Sì, no, e ma... allora andiamo con un'altra canzone che stavolta, ecco, è allegra, dai. Oh, almeno... meno male, è vero, questa è un po' più allegra. Ci sentiamo fra qualche minuto con Rafael Guazzi. Guazzi, Guazzi. Guazzi. È italiano. You, since the first time I saw you, it was still the end. Doesn't matter too much if now I really can't touch you. You, since the first time I loved you, it made me feel so glad. But don't leave me alone, you'll be part of my songs. In the sunlit morning, there's a sunlit music. Won't you love me, little, little girl of mine? Take my hand, hold me tight. It makes me feel alright, yeah, makes me feel alright. In the sunlit morning, there's a sunlit music. Won't you love me, little, little girl of mine? Take my hand, hold me tight. It makes me feel alright, yeah, makes me feel alright. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. You, since the first time I held you, it drove me simply mad. Please get out of my dreams, cause you're under my skin. And you, since the first time I felt you, it was deep inside me. So believe me, my love, you'll be part of my songs. In the sunlit morning, there's a sunlit music. Won't you love me, little, little girl of mine? Take my hand, hold me tight. It makes me feel alright, yeah, makes me feel alright. In the sunlit morning, there's a sunlit music. Won't you love me, little, little girl of mine? Take my hand, hold me tight. It makes me feel alright, yeah, makes me feel alright. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. When I used to kiss your paper, all around there was nothing. I don't care if it sounds like the same old love song, cause I feel it. And in the sunlit morning, there's a sunlit music. Won't you love me, little, little girl of mine? Take my hand, hold me tight. It makes me feel it right now. Sunlit morning, there's a sunlit music. Won't you love me, little, little girl of mine? Take my hand, hold me tight. It makes me feel alright, makes me feel alright now. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. In the sunlit morning, there's a sunlit music. Won't you please believe me, little girl of mine? Take my hand, hold me tight. Makes me feel alright, yeah. In the sunlit morning, there's a sunlit music. Won't you please believe me, little girl of mine? Little girl of mine. In the sunlit morning, there's a sunlit music. Won't you please believe me, little girl of mine? Take my hand, hold me tight. Make me feel really right. Comunque, io volevo dire che, vi faccio una parentesi. Noi stiamo organizzando stiamo organizzando una vacanza in campeggio in Trentino. Abbiamo deciso di fare una tappa intermedia e fermarci in albergo. e doveva essere Verona. Da qualche giorno abbiamo cambiato idea. Esatto, comunque. Anche perché io non sono mai stato a Verona e volevo vedere sto benedetto balcone. Così ci vai a fare, insomma. Beh, allora a quel punto, visto insomma anche questa, secondo me questo deve essere una contropubblicità per la città di Verona, perché secondo me poi dopo la fine la devono risentire. La devono boicottare. Vabbè, ma scusa, ma vogliamo parlare del Veneto e di Venezia che ci fa pagare 10 euro mentre cioè, ma quale? No, a me Venezia, ma quale stanno, regione ospitale è la Veneto? Mi stanno a rivedere, cioè, mi stanno a rivedere. No, sì, veramente. Salutiamo Carmine Puccio Consol. Oh, finalmente. Ciao Carmine. Lui ci sarebbe andato solo per il Pandoro, ha detto. Ma perché il Pandoro lo fanno a Verona? Ma Carmine, ma quando ci saresti andato per Pandoro te? Ma dove vai? Ma che te conoscevo? Carmine, io e te faremo un viaggio una volta, una cosa seria, no? No, ste cialtronate. Dai, dai, no. E mo fra un po' ti ricostringiamo a fare qualcosa. Sai che quest'anno andiamo in campeggio. Penso che tu moriresti. Di questa cosa ne parleremo in un'altra puntata dove la dedicheremo ai cazzi nostri, insomma, perché sai, ogni tanto le puntate dei cazzi nostri noi la dobbiamo fare. Cazzi nostri. Si chiama De cazzi nostri puntata. Comunque veniamo alla questione. Volevo dire io penso, c'è il gruppo in gola. È brutta la politica, sapete perché? Perché oggi la politica è diventata terreno fertile per per i sociopatici che non hanno nessun tipo di rapporto di empatia con le cose o con le persone, ma quello che vedono è la propria posizione nel mondo. Quindi se tu pensi mo Salvini, no, che poi probabilmente, che ne so, un giorno ci farà chiudere la radio, non lo so, perché insomma sapete che l'andazzo non è, lo dicevamo 5 anni fa, 6 anni fa, 7 anni fa, quando facevamo tutto un podcast, noi vi avvisavamo, ve lo dicevamo, guardate che è una brutta storia, ma non ci hanno fatto chiudere, però dai, perché non ci sento, ci hanno provato qualche amichetto podcaster po' strano subito. Però no non ci hanno fatto chiudere, perché anche perché amichetto podcaster si è stufato subito, insomma, dice quindi. Che per il Pandoro il culo della storia lo alzo, ha detto pure che sta cercando ancora su Google la voce campeggio, cioè non so, sa che significa page dice. Not found, cerca, cioè, l'abbiamo trovata, vabbè. E insomma, tornando, diventeremo Ruspa Time Radio, fantastico. Praticamente dicevamo che una persona come Salvini, che sì, sarà di destra, sarà mezzo fascistoide, sarà tutto quello che vi pare, no? Però io sono convinto, anche per il tipo di condotta di vita che ha fatto, che fa o roba del genere, che a Salvini di sta roba non gliene frega un cazzo. Non gliene frega un cazzo proprio, ma non solo, ma è così, non è che. Perché e lo vedo su tante altre cose. Cioè, lui l'importante è determinare una posizione netta e cazzo turistica, come dicevamo quando parlavamo insomma dell'epoca del Berlusconi, che Berlusconi oggi si lamenta, ma l'ha creato tutto lui sto standazzo, è il Berlusconi che ha creato sta deriva mostruosa de antipolitica, de gente ignorante che oggi c'è gente ignorante che oggi sta lì in Parlamento, persone che non hanno mai toccato una penna per scrivere una cosa che significava lavoro e che oggi si trovano lì, insomma. Ma cioè, ma ti fa capire il fatto che comunque mi abbiano chiesto a me di candidarmi, cioè nel senso adesso. Vabbè, però si è sempre fatto. Sì, però la politica adesso è vista veramente con una superficialità e con cioè non c'è, ma da purtroppo io cioè amici vi voglio bene, però dal Movimento 5 Stelle in poi io credo che comunque se sia, ma anche prima probabilmente, come dicevamo, con l'Italia dei Valori eccetera, quando hanno cominciato ad entrare determinati personaggi, oddio, non è che ci avevamo i santi in paradiso, per carità, no, però anzi, comunque, diciamo che hanno fatto del tutto per far salire sta gente, però insomma. Comunque fino a un certo punto almeno si sapeva quello che si andava a fare quando si saliva al governo. Al momento veramente non c'hanno idea, assolutamente idea di quello che stanno facendo, né destra né sinistra, né fronte né sud né ovest, cioè veramente una situazione molto molto molto molto brutta per quanto riguarda comunque, Salvini, secondo me Salvini non gliene frega un cazzo, cioè non gliene frega un cazzo, e andare lì a dire noi stiamo costruendo il futuro, a me sta il cosa il problema è che la cosa che mi spaventa di più è il fatto che secondo me Salvini è l'unico che sa quello che sta facendo, certo, nonostante la butta in caciara da una parte a un'altra, lui comunque ha degli obiettivi e diciamo così delle degli accordi che deve rispettare, perché se no lo fanno saltà, perché comunque come fanno saltà Di Maio, che non è nessuno, fanno saltà di Salvini, non gliene frega niente, quindi lui sa quello che deve fare e purtroppo va avanti come un treno e non guarda in faccia a nessuno. Non che ci aspettassimo che ci avrebbe guardato in faccia, gli piace. No, lui ce l'ha dice questo, no, perché deve far vedere. E tutti gli italiani che ci hanno sempre avuto sta cosa, c'è cazzo da fare, lo dicevamo sempre, gli italiani ci hanno sempre avuto sta cosa di vedere quello sul barcone che sta lì a dire no, capito? E tutti, no, però il poi fumo negli occhi, nessuno se domanda ma sono uomo, cioè è sensato, perché poi noi oggi io vedo ancora la gente che si lamenta, raga, noi c'è, qui c'è una pizzeria, una sera siamo andati a mangiare, detto non ci andiamo più, che c'era il tizio che stava lì al pizzettano, perché sti negri, capito? Che no, era contento. Allora, intanto Cuccio ci dice che secondo lui un'idea ce l'hanno pure, ma è infattibile. Mi piacerebbe capire qual è. Poi ce la spiegherà, insomma. Poi lo invitiamo, una volta lo invitiamo. voglia, quante volte abbiamo invitato, ma questo prima che arriva a Roma. No, non invitiamo. Davvero ci viene col trattore a Roma. Sei venuto col gommone una volta, si diceva, sapete, sì. Non è una cosa bella, insomma. Stendiamo un velo pietoso, perché mio marito quando fa le battute veramente fa piangere anche i... Io intanto sto cercando di far capire al mio computer che c'è l'ora legale, però non lo so, vabbè. Comunque, allora, comunque ci dice Carmine, noi ridiamo e scherziamo, ma su Twitter Jim Carrey litiga con Alessandra Mussolini. Aggiornaci Puccio, perché c'è proprio sfuggita sta cosa, molto curiosa. Ma perché Alessandro Mussolini sa l'inglese, scusate? Non lo so. Ma cioè sarà tipo mi fa lo scroto. No, sarà tipo quando Rita Pavone ha litigato con i Pearl Jam e Eddie Vedder, è uscito un meme di Eddie Vedder che scriveva "Who the fuck is Rita Pavone?". Ma veramente sì. Io che poi che figura di merda. Cioè noi oramai quando andremo all'estero, dice voi di dove siete? Noi siamo dello Svagendragestan. Cioè ma come? Mi sembrate italiani? No, noi Svagendragestan veniamo, che è una nazione che si è appena costituita, anzi del Monte Rotonden. Veniamo, quindi noi niente. Vabbè, comunque andando avanti, concentrandoci su Salvini, allora, io sinceramente, vabbè, a parte le. Il tantissimo fumo negli occhi e una parte di me comunque cioè una piccola parte di me, quella sadica, dice vedi, voi avete voluto tutto sto balcone, mo voi tenete, il guaio è vostro, il problema è che il guaio è anche nostro e che quindi non ne verremo fuori così facilmente e così diciamo anche con poche conseguenze, cioè le conseguenze saranno tante e saranno anche toste da digerire, ma ci abbiamo già le conseguenze in corso, cioè comunque abbiamo un'economia inesistente, una produzione inesistente e comunque un diciamo così, uno stato sociale che non esiste, che si concentra su cazzate come quelle della la famiglia che deve essere come dicono loro, mamma, papà e figlio, torniamo praticamente a mettere in discussione una legge importantissima, essenziale, intoccabile, che io direi intoccabile come quella sull'aborto, quindi a mettere in discussione il corpo della donna e torniamo in qualche modo a mettere in discussione tutto quello che abbiamo recepito come diritti naturali e da questo punto di vista però mi consenta che è colpa della donna, io non voglio di niente, però noi insomma ci ho visto più donne che uomini lì a qua manifestazione. Assolutamente sì. Quindi, ma purtroppo non è colpa della donna, diciamolo. Ho visto anche tante donne combattere e comunque manifestare contro questa manifestazione. Il problema è proprio quello culturale, per cui non ne verremo fuori facilmente, perché comunque non ci sono donne o comunque non ci sono abbastanza donne unite per difendersi e per cercare di combattere veramente. Anche se io credo che domani ci sarà un'altra manifestazione, martedì ci sarà un'altra manifestazione a Roma Contro praticamente contro tutti, tutti contro tutti. No, contro la necessità di mettere in discussione la legge 194. Beh, sì, no, veramente siamo arrivati. Ragazzi, noi stiamo a fare un passo indietro, l'Europa ci guarda. E all'inizio pensavo un po' preoccupati, ma adesso ci guardano proprio, cioè, si sti paia, ma dove vanno sti paia? Perché veramente. Vabbè, comunque niente, vabbè, Carmine ci fa un appunto che però io magari ce lo teniamo per un'altra. Allora, apro una parentesi. Per un'altra puntata, perché sennò apriamo poi altri temi che non no, cioè nel senso adesso non è il caso. Però è così, è tutto congelato, Carmine. L'economia è ghiacciata, cioè nel senso è ferma, immobile. E i reali problemi che comunque affliggono l'economia da anni e non sono stati ancora affrontati, perché comunque non, prima di toccare comunque l'immigrazione e comunque gli sbarchi, c'è una popolazione che sta praticamente morendo di pressione fiscale e di mancata produzione e di comunque forza lavoro e forza cervello, perché non mi viene in forza lavoro che si trasferisce all'estero. Direi che possiamo ascoltare un'altra canzone, così andiamo avanti. A questo punto e mio marito si sta annoiando. Sì. No, non mi sta annoiando, però non volevo entrare in temi che tratteremo in altre puntate, insomma, che poi dopo diventa un po' complicato. E a questo punto ci andiamo a sentire qualcosa di un po' più robusto, diciamo così, perché così sennò poi dopo tutti dicono che Michela mette le canzoni noiose, ma non è così. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. pianeta succedono tantissime cose importanti, tutte insieme, tutte contemporaneamente. Noi parliamo di religione, di politica, di cose importanti, allo stesso tempo io con il tecnico sto cercando di aggiustare l'orario del... sempre Buccio. Ciao Buccio, ciao. Buccio che ci ascolta e nel frattempo mentre che tu spieghi l'argomento di cui vuoi parlare, io intanto cerco di capire. No, io sono rimasta colpita da una legge che ci serviva tantissimo, come poi adesso vedrete, ne avevamo bisogno, quindi questo governo fa solo cose di cui abbiamo bisogno e quindi ci salva la vita ogni giorno, ci salva la vita talmente tanto che secondo Salvini l'approvamento l'avvenimento della legge che è diventata legge sulla legittima difesa è un gran giorno per gli italiani, cioè noi non ci avevamo un cazzo da fare e che tutti i giorni stiamo lì col fucile puntato aspetta che la gente entra dentro casa nostra. Le brutte parole di mia moglie. Scusate, furto, diciamo così, sempre mal visto, può succedere, un furto in casa, eccetera. A noi pure ci è successo a tutti, però non è che ci mettiamo, non ci è venuto proprio mai in mente di metterci una pistola dentro il comodino o sotto il cuscino per uccidere chi entra dentro casa, ma manco per sogno. No, anche perché, aspettate, scusate che mi è partito il volume, ma manetta qua. Anche perché, al di là del. Anche queste sono quelle leggi che fai per fatte propaganda. Perché in realtà io penso, loro sanno. Ma io faccio un grande applauso al Movimento 5 Stelle che sta facendo fare tutta questa grande propaganda. Bravi, veramente. Ci siete piaciuti tantissimo. Sì. E spero che ci siano persone che ci devono ascoltare, che ci ascoltino, perché veramente. È diretta proprio a loro. Ti dirò di più, che secondo me questi hanno fatto sta legge sapendo che la legge c'ha grossi problemi di costituzionalità, che probabilmente verrà rettificata dalla Corte Costituzionale, adesso vediamo, no? Perché secondo me nessun politico se vuole sporcare le mani di sangue veramente. Allora, come dice... La cosa pericolosa, qui finisco, lo stavamo dicendo ieri sera a casa di un nostro amico, la madre, insomma, mentre parlavamo, e il problema non è la legittima difesa in sé, che io comunque non condivido. Il problema è possedere un'arma, perché possedere un'arma significa poter creare situazioni di incidente per tantissimi motivi, anche per errore, anche perché ti sei spaventato, anche perché quanti incidenti si sono sentiti o si sentono che figlio ammazza la sorella perché o roba, non si scherza, raga. Noi fino a oggi rispetto agli americani ci siamo salvati, perché sta roba non volevamo manco sapere come era fatta. Sì, evidentemente le lobby hanno deciso di affacciarsi pure da noi. Comunque, come urla la senatrice del PD, che dice ormai è lo stadio, in pratica altri 33 democratici hanno votato contro il disegno di legge che è stato approvato in terza lettura dal Senato, con 201 sì, 38 no e 6 astensioni. Cioè, raga, una roba impressionante, cioè guardate in mano a chi stiamo. Se lo so proprio, cioè nel senso se li sono proprio distribuiti sti voti. In base alla riforma. No, ma stanno a fare sto giochetto, io ti faccio passare la legge a te, tu mi fai passare la legge a me. Questo è il governo del cambiamento, raga, a me mi fate ridere perché. In base alla riforma la difesa di chi respinge armato un'aggressione o una minaccia subita in casa, sul lavoro, è sempre legittima. E la persona non è punibile se era in grave turbamento, automatismi pericolosi secondo la magistratura. Tutti saranno meno garantiti, torna il presidente dell'ANM Francesco Minisci, che rimarca di nuovo i numerosi dubbi di incostituzionalità che la nuova legge comporta. Salvini smentisce le critiche, che sta scherzando, non c'è nessuna perplessità perché ha letto il testo, a stroncare la legge anche i penalisti, è un'emergenza virtuale. Sentite bene ragazzi, perché è questo di cui parliamo, non esistono vere emergenze di cui questo governo si sta occupando, purtroppo. Inesistente, visto che i casi di legittima difesa in casa sono 2 all'anno e si tratta di assoluzioni, ricorda il presidente dell'Unione delle Camere Penali, Gian Domenico Cagliazza. Intanto orgoglioso per aver vinto una battaglia lunga 15 anni, Il vice premier leghista ringrazia gli amici del 5 Stelle, ma anche quelli di Forza Italia e Fratelli d'Italia, che hanno votato dalla stessa parte. Ma stavolta il provvedimento sarebbe passato anche senza i voti dei forzisti e del partito di Giorgia Meloni. Bella, bella persona. Bella Meloni, bella. Sebbene al pelo. Nella maggioranza sono stati 51 sì della Lega, 91 dei 5 Stelle. La somma fa 142. Esattamente il quorum, cioè, raga, 91 dei 5 Stelle, cioè, veramente una cosa impressionante, non c'ho parole. Ma quando pensi ai 5 Stelle ti devi dire solo di poracci. Insomma, l'alleanza Movimento 5 Stelle Lega ha retto nel Movimento, ma nel Movimento non sono mancati dissensi. Però l'avete comunque votato, certo, una grande maggioranza. Ma questi sono quelli che hanno salvato Salvini dal processo, raga. Cioè, il come una settimana fa, 5 Stelle, eh. Come una settimana fa nel voto sul caso Diciotti. Allora, le dissidenti furono tre: Paola Nunghes, Elena Fattori, Virginia Lamura. Allora, ora si sono aggiunti Barbara Florida, Matteo Montero, Montevecchi, eccetera. Non a caso, a fine votazione, i leghisti si alzano e applaudono. Limita una parte degli alleati, non tutta. Tra i ministri invece assenti, quelli di 5 Stelle, sui banchi del governo c'è il trio leghista Salvini, Giulia Bongiorno, che è tra l'altro la fantastica donna che aveva un'associazione ultra ricchissima che difendeva le donne, ma c'aveva un call center che non funzionava mai, poi un giorno parleremo anche di questa cosa vergognosa, della pubblica amministrazione, Gianmarco Centinaio, responsabile delle politiche agricole. Maggioranza salva, ma in continuo calo a Palazzo Madama, dove i numeri più stretti della camera, complessivamente i due gruppi toccano quota 165 senatori e la maggioranza è utile. Sulla legittima difesa quindi sono mancati all'appello 19 senatori, che non se ne sono sentita dei votati, sinceramente, poracci. Allora, nel frattempo Forza Italia non ci sta a lasciare tutta la scena a carrozza e rivendica la legge come una vittoria per il centrodestra, perché comunque anche Berlusconi avrà a suo tempo avuto, diciamo così, contatti con queste lobby e con queste, e con, diciamo così, provato a stringere questi accordi, che magari avevamo una sinistra un po' più sinistra prima e forse siamo riusciti a fermarlo in tempo. Adesso purtroppo quello che dobbiamo dire è soprattutto che la sinistra esiste in modo molto fantasma e in modo molto che non esiste, e questi se la cantano e se la suonano. Purtroppo è una situazione abbastanza complicata da questo punto di vista, però non vedo neanche un modo per uscirne, quindi diciamo che è una brutta storia, una brutta storia. Vabbè, tanto poi questa legge, ha detto, secondo me poi dopo alla fine non so quanto poi riuscirà a sopravvivere, però insomma l'importante è che lui ha dimostrato di aver fatto questa cosa, che è una cosa importante, sì. Perché il giorno in cui la bocceranno e loro, perché oramai va di moda sta cosa, no? E non ce lo fanno fa, capito? Poi tra l'altro non so se ne vuoi parlare successivamente, cioè nello stesso periodo, mi sembra proprio gli stessi giorni, una legge molto importante per cui anche Forza Italia ha combattuto molto, è stata in qualche modo, come ci suggerisce anche Puccio, non è stata votata e quindi non è andata in porto, e quindi questo ti fa capire il, diciamo così, le priorità di questo governo, perché la legge su revenge porn non è stata neanche presa in considerazione dal 5 Stelle e dalla Lega, e quindi i voti non sono bastati affinché l'iter potesse andare avanti, e diciamo che ti fa capire questa situazione, ti fa capire quanta importanza veramente le situazioni sociali tra virgolette sono, diciamo, gli frega, quanto gliene frega, sì, sono interessanti per il governo sia 5 Stelle che Lega, perché veramente, cioè, ma la peggiore delusione veramente, noi lo sapevamo, cioè, non è che ci siamo stupidi o roba del genere, però veramente vedere il Movimento 5 Stelle avrebbe dovuto cambiare il mondo, no? Che stavamo lì, no, qui noi spacchiamo i culi. Ma ricordiamoci che il Movimento 5 Stelle non ci ha avuto neanche il coraggio di votare quando c'è stato il decreto Cirinnà, cioè non è grazie al Movimento 5 Stelle che il decreto Cirinnà è diventato legge, che poi purtroppo adesso viene messo di nuovo in discussione. Non ci hanno assolutamente, questo movimento non è un movimento del popolo, questo movimento è un movimento dell'interesse di una categoria, diciamo così, una persona che comunque gli dice esattamente quello che devono o non devono fare, quali sono gli interessi che devono o non devono smuovere. E purtroppo Non si sa perché i diritti, diciamo così, basilari naturali, diciamo. Attenzione a naturali, che non è un termine appropriato, però sì, insomma, diciamo i diritti che comunque rappresentano il sociale o comunque il welfare, diciamo così, non interessano a nessuno delle due, diciamo così, dei due partiti al governo, né al Movimento 5 Stelle né soprattutto alla Lega, che vabbè non gli interessano proprio, non gli sono mai interessati, questo abbiamo saputo. Il Movimento 5 Stelle si è finto un po' progressista perché comunque voleva essere quello che in qualche modo avrebbe cambiato dal basso, uno vale uno, eccetera eccetera. Mo uno vale uno, sì, vale, sì, quello, sì, che no, dico, ma io poi sospendono chi gli parla a loro, salvano chi gli parla a loro, veramente è diventato peggio della Democrazia Cristiana senza la caratura politica, chiaramente. Quindi no, ma non c'hanno proprio idea di quello che vanno a fare, cioè non c'hanno uno studio, cioè ragazzi, qua si è perso, ma si è perso, ragazzi, no, ma si è perso in tutti i settori, purtroppo. Cioè qua tutti si improvvisano muratori, tutti si improvvisano assicuratori, tutti si improvvisano diciamocelo, vergogna, banchieri, tutti si improvvisano qualsiasi cosa, perché comunque non, sì, ha, non poi mi dice a me che mi passerà l'embolo. c'è ragione. Io passerei al prossimo brano, sì, perché poi dopo c'è la Lazio stasera, quindi c'è la Lazio, se dobbiamo sbrigare, capito, quindi passiamo al prossimo brano, che è un brano italiano, così giusto per far cantare anche le persone che non sanno le lingue. Ah, soprattutto è un cantante che assomiglia tantissimo a Puccio. Va bene, ciao. Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia di abbaiare o di ringhiare, canzoni tanto per cantare. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è niente da cantare, solamente un grande vuoto che a guardarlo ti fa male. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rancore, io canto solo per me. Le mie canzoni poco intelligenti che ti ci svegli la mattina e ti ci lavi i denti. Canzoni per chi non ha voglia di pensare o di ascoltare, canzoni per dimenticare. Sono canzoni poco consistenti, insomma canzoni come me, che non faccio più ragionamenti, che voglio solo sensazioni, solo sentimenti e una tazzina di caffè. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è molto da cantare, solamente una tristezza che è difficile toccare. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, io canto un mondo che non c'è. Acchiappano alla gola senza tanti complimenti, canzoni come sberle in faccia per costringerti a pensare, canzoni belle da restarci male. quella canzone da cantare a squarciagola, come se 5.000 voci diventassero una sola. Canzoni che ti amo ancora, anche se triste, anche se dura, canzoni contro la paura. Canzoni che ti salvano la vita, che ti fanno dire no, cazzo, non è ancora finita, che ti danno la forza di ricominciare, che ti tengono in piedi quando senti di crollare. Ma non ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore e tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone. Dai Caruccio, sto ragazzetto, ricordiamo Brunori Sas, che sembra una sorta di azienda, insomma. Sì, è il nome dell'azienda del padre, che poi lui ha lasciato perché voleva far cantautore. E quindi ah beh, quindi ha chiamato come beh tutto sommato c'è anche riuscito. Canzone sì. Contro la paura, che è appropriato per il tema, insomma, di cui sì. Vuoi parlare in questo momento, perché sì, io purtroppo voglio parlare insomma, tra le tante, diciamo così, ingiustizie che si verificano nell'Italia di oggi. È che i ragazzi non ci stanno solo i neri che violentano le donne, mi dispiace dirvelo, mi dispiace darvi questa triste notizia, ma purtroppo la minoranza è quella che viene purtroppo violentata da uomini neri che comunque sono brave persone o cattive persone a seconda di quello che sono, esattamente come i nostri cari amici italiani. E la ragazza che è stata violentata qualche settimana fa sulla circumvesuviana da tre ragazzini, praticamente ha dovuto assistere a genitori di questi tre ragazzini che in qualche modo hanno aspettato fuori i ragazzi fuori dalla caserma e gli hanno applaudito. Cioè ragazzi, abbiamo dovuto vedere persone che applaudono, cioè avete ragione, persone che applaudono. Sorry, è stata sempre una parola molto controversa per me, non sono mai riuscita a mettere applauso. Ma solo per te però. Per me. E adesso questi ragazzi sono liberi, questi fantastici fanciulli che se li prendessi io li riempirei di botte, sono liberi. Ma le botte sono liberi e sono diciamo così, questa ragazza che è stata aggredita a San Giorgio Cremano ci dice che non c'è giustizia e il dolore diventa insopportabile, ovviamente, perché quando comunque viene a mancare la cosa fondamentale, cioè l'attenzione nei confronti della vittima, perché questa società praticamente ci sta insegnando come non importa che tu sia la vittima, importa chi è che t'ha violentato. Ok? Perché se t'ha violentato il nero o t'ha ucciso il nero, sei la vittima e sei la ragazza che dobbiamo ricordare tutti. Se t'ha ucciso il bianco, sei la ragazza che nessuno deve in qualche modo ricordare, che nessuno deve difendere, diciamo così. Beh, questo poi è un periodo in cui stiamo vedendo delle revisioni di pena proprio in questa tematica veramente inquietanti, e questo la dice lunga secondo me proprio su quello che sta accadendo, perché in realtà non è tanto soltanto quello che accade, no, che deve essere un'umiliazione, e l'umiliazione anche dopo, perché comunque poi dopo alla fine ti ritrovi a vedere pene sospese o addirittura cancellate in confronto a queste situazioni qua, e poi sbeffeggiano anche. Ricordiamoci la questione, che grazie a Dio pare che stia prendendo una piega diversa, del povero Cucchi, no? Ve lo ricordate? Sì. La questione del povero Cucchi non era tanto il fatto povero, cioè nel senso, a prescindere dalle sue responsabilità, non era il fatto che questo è stato ammazzato dalle forze dell'ordine, quindi dallo Stato che ti dovrebbe proteggere, è il fatto che queste persone, dopo aver costruito questo muro di verità, andavano dalla sorella e la insultavano pure, gli hanno fatto pure una causa, gli hanno fatto, no, adesso mo fanno un po' pippa. Fanno un po' pippa, però comunque ci stanno i genitori di Stefano Cucchi, che sono veramente provati e che non riescono più a presenziare alle tante sedute delle tante cause che ci sono state. Purtroppo veramente la sorella di Stefano Cucchi e anche tutte le persone che comunque hanno partecipato alla produzione di questo film, nonché l'attore principale che non mi viene il nome, se mi aiuti a cercarlo. Manco io non lo ricordo, ma soprattutto grazie anche a Netflix, ragazzi. Netflix qui grande coraggio, cioè, bisogna dirlo, perché comunque questo, diciamo così, questo articolo che ho trovato su Repubblica mi ha colpito molto, perché questa ragazza ha ancora il coraggio di parlare, manifestare il suo dissenso, e da questa ragazza dovremmo imparare un po' tutti. Sì, non bisogna rendersi, perché se arrendiamo alla fine, ragazzi, perché purtroppo quello che rimane è quello che loro vincono, cioè hanno vinto su tutti i fronti e noi dobbiamo stare lì e far pimpa, perché a un certo punto tante volte, a volte proprio perché non ce la fai più, cioè nel senso, su quello fanno gioco, no? Noi stiamo vivendo una situazione, poi magari ne parleremo, sicuramente molto più leggera, però a volte ti dici, vabbè, cioè, che lotti a fa? Perché poi non c'ha proprio senso, perché c'è un meccanismo, c'è chiaramente un meccanismo, che se tu non lo segui nel modo in cui lo seguono gli altri, evidentemente, la giustizia prescinde, no? Perché poi dopo alla fine, cioè, mi veni da dire, no? Perché insomma, vabbè, comunque dai, di questo poi ne parleremo in un'altra occasione. Volevo leggere le frasi della ragazza. Vai. Che ci dice: non abbiate paura di denunciare. E agli uomini che compiono abusi c'ha anche il coraggio, perché c'ha veramente un coraggio sta ragazza. Dice: fermatevi, usate la forza della ragione e non l'istinto. La persona che scrive questo articolo su Repubblica ci disegna, diciamo così, un quadro quasi confortante, perché ci dice che la ragazza ha tra le mani un libro, che è un libro bellissimo, che io consiglio a tutti di leggere una volta nella vita, ma anche due, tre, quattro, perché è veramente un mondo incredibile, che è Cent'anni di solitudine. No, basta. Non è sola in realtà, sono tutti intorno a lei, i familiari, gli amici, ma per allontanare l'orrore di quel pomeriggio si rifugia nella Macondo di Gabriel García Márquez, un posto, il posto più bello nel mondo che sia mai esistito, perché non è mai esistito, però esisterà per sempre, e ascolta i versi meravigliosi di Fabrizio De André, che canta: il bosco era scuro, l'erba già venne, lì venne Sally con un tamburello. Insomma, un'immagine abbastanza, diciamo così, una cornice quasi confortante, che comunque ci dice che questa ragazza in qualche modo verrà aiutata. E gli viene chiesto come sta, lei dice di essere ripresa e dice che comunque, parlando dell'accaduto, secondo lei non c'era nessuno, però gli viene in mente che a un certo punto qualcuno avrebbe potuto aiutarla, e questa è la cosa che spaventa ancora di più, perché comunque veramente è diventato un periodo difficile per noi donne, è diventato un periodo difficile per girare da sole. Non c'è, cioè, lo so che può sembrare retorica, io sono circondata da amici che non gliene frega un cazzo delle donne, però purtroppo è questa la realtà, è diventato un periodo complicato, insomma, perché è un periodo complicato veramente, quindi capisco quello che dice la ragazza, e soprattutto capisco la sua rabbia, perché i giudici hanno scarcerato due degli indagati. Ha paura che possano vendicarsi, non si aspettavano che li avrebbe denunciati, e non abitano distanti, e ha paura di incontrarli, e sta cosa è veramente agghiacciante. Beh, anche giustamente c'ha paura, perché... sì. Però guarda, mi viene chiesto perché secondo te sono stati messi in libertà, e lei risponde: credo che i magistrati siano stati ingannati dal mio atteggiamento iniziale di benevolenza verso quei ragazzi. Si vede dai filmati, ma io non l'ho mai nascosto. Si sono avvicinati chiedendomi scusa per avermi seguito fino a casa, e io gli ho creduto. Cioè, ragazzi, stiamo scherzando, cioè, veramente, c'è una ragazza che si deve giustificare su perché in qualche modo ha avuto una discussione con queste persone, cioè, una cosa impressionante. Io spero che questa situazione cambi, che questi ragazzi paghino davvero, Però non ci abbiamo più molta fiducia, quindi speriamo per questa ragazza che cambi veramente. Però purtroppo anche guardando, io sono molto felice di non guardare la televisione generalista, nel senso che mi capita soltanto di vedere propaganda live, ma me lo vado a cercare su internet, perché il resto non mi interessa molto. Però mi rendo conto che anche la televisione stessa sta creando questo divario e comunque questa comunicazione per cui una donna che ha un certo atteggiamento nei confronti di un uomo, nei confronti di un ragazzo, o ha un certo stile di vita, o un certo stile di un certo vestito, con un certo modo. Vabbè, amica, ma non c'è manco bisogno di andare così là, cioè, come abbiamo visto l'altro giorno il telecronista campano che dice che non si può vedere l'arbitro femmina, che schifo, sì. L'arbitro femmina è una cosa inguardabile. Schifo l'arbitro femmina. Sì. Cioè, questo è indice di un tempo e di un momento storico veramente grave. Che è inutile sta a discutere, perché no, però non so. Però mi dice Gagnese. Una volta nessuno si sarebbe mai potuto permettere pensarla una cosa del genere, figurate di dirla, insomma. No, sì, è vero. Io ti denuncio, c'è Carmine che continua a molestarmi e mi dice io ti denuncio a tutti i modi. Dice che ti ha scritto una cosa su Telegram. Sì. Ma comunque vabbè, andiamo al prossimo brano. Andiamo al prossimo brano. Che ci sta, insomma, sì. Che ci fa sempre un po' piacere sentire un po' di musica. Sacchiamo, poi andiamo quasi verso il finale, sì. Perché ci siamo quasi. Bit tra la lit pit fit lit mitti nit. E vabbè ragazzi, allora cominciamo quasi a sbaracchiare, non sbaracchiamo proprio, perché insomma adesso Michela ci racconta una cosa, c'è un ultimo brano e poi andiamo con los saludos, che insomma è sempre sì, un sì, e poi nel saluto, insomma, prima del saluto metteremo comunque qualche cosa che È ancora d'attualità. No, perdonateci per la musica che andremo a mettere, però lo dobbiamo. Adesso tu tanto parlo di questa cosa. Allora, tutti sapete, perché tutti ormai i miei amici sanno che io sono diventata supporter. Mamma. No, mamma, no, non sono diventata mamma. Supporter veramente affezionatissima di un rifugio speciale, un rifugio che si trova alle porte di Roma. Che si chiama il Rifugio delle Code Felici, dove vengono ospitati 50 cani circa, provenienti da diversi canili, diverse situazioni, che comunque sono cani speciali, bellissimi, e chiunque vuole può venire a trovarci, perché comunque accogliamo tantissime persone il giovedì, il sabato e la domenica mattina. No, non è chiaro, però questo messaggio al solito è sempre confuso. Accogli i cani o accogli le persone? Perché non è... Accogliamo i cani che vivono in questo rifugio. Sono 50 cani che aspettano di essere adottati da famiglie di tutti i tipi, perché noi veramente siamo pro le famiglie speciali, e quindi famiglie di tutti i tipi. Fatevi avanti, venite se volete adottare un amico. I cani fanno la famiglia naturale? I cani sono oltre, i cani sono veramente esseri oltre. Creatura oltre è il gatto. Sì, ma i cani sono oltre. I cani sono puzzano oltre. E secernono. Allora, per quanto riguarda, allora, noi siamo sempre, il rifugio si chiama Rifugio delle Code Felici, ci trovate su Facebook, ci trovate su Twitter, su Instagram, ci trovate su internet semplicemente cercandoci su Google, e se volete venire a trovarci, contattatemi, vi faccio strada, vi ospito e vi faccio conoscere i nostri fantastici amici. Per aiutare i nostri fantastici amici che comunque mangiano come muli, perché comunque sono cani. Sono cani o sono muli? Sono cani che mangiano tantissimo, benissimo, perché noi siamo molto attenti all'alimentazione dei nostri amici a quattro zampe, e quindi hanno costante bisogno di cure, cibo, cure veterinarie e soprattutto cibo. Facciamo diversi diciamo, no, così. In questo momento Michela sta parlando, quindi non riesce a parlare e a linkare contemporaneamente. Hai ragione, facciamo diverse raccolte fondi, e una di queste raccolte fondi per farli bagnare, sì. Ci inventiamo praticamente raccolte durante il sabato e la domenica nei centri di vendita cibo per cani, eccetera, e una di queste raccolte fondi vedrà coinvolte la vendita di uova di Pasqua. Allora, c'è tutta una lista di cose di Pasqua che possiamo preordinare fino al 9, altrimenti con 10 euro potete acquistare un semplice uovo di Pasqua da 500 grammi al prezzo di 10 euro, e con queste 10 euro partecipate all'adozione simbolica per un mese a distanza per uno dei nostri cani, che sono tutti stupendi, quindi ragazzi, io potete salvare, dare da mangiare a Ciolanca Sbilenca, a cane lucertola. Dice che non riesco a parlare e leccare contemporaneamente. Maria Pina, ma che dice, che schifo, proprio questa cosa, proprio mi ha fatto quasi schifo. Bene, allora, poi durante, insomma, sulle note dell'episodio, di questo episodio, che poi troverete in download per chi ancora è abbonato al nostro feed, poi dopo, insomma, negli saluti finali cerchiamo anche di far capire in che modo faremo risuscitare questa puntata. Comunque, ragazzi, anche se non comprate l'uovo di Pasqua, noi i fondi li raccogliamo lo stesso, quindi cacciate i soldi, potete mandarci tramite PayPal, tramite PostePay, tramite Piccione Viaggiatore, come vi pare. Un po'. fate una bella offerta di Pasqua, perché questi cani saranno felici. Sì, sì, no, no, la vita Pasqua, vi daremo poi aggiornamenti e faremo una puntata anche su questa cosa qui, perché questo episodio introduttivo serve anche per spiegare di che cosa parleremo un po' nelle prossime, perché poi chiaramente Michela ci tiene a parlare di questo argomento, è diventata la sua nuova passione, che è bello, bello, però dopo un po'. E allora, no, è bello, quindi ne parleremo di questa cosa. E niente, adesso metto un attimo un altro brano, così mi organizzo con Michela sui saluti finali e così vi daremo le informazioni, appunto, insomma, fra poco ritorniamo. Un secondo solo, ciao. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and tries more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for questa è la playlist di esordio del primo episodio della seconda stagione di Everything, che chiaramente il nostro direttore artistico Michele De Paola ha scelto ancora una volta. Yes. Però la prossima volta cerchiamo di mettere un po' più di verve, un po' di frizzantation. Oh, frizzantation! Ho messo i Kaiser Chiefs, ho messo gli alieni. Hai messo Michael Spomicione là, Michael Kiwanuka là, che una palla incredibile. E vabbè, comunque detto Raffa questo, Rage Against the Machine, no, ho è messo. Vero, è vero, Raffaele Gualazzi, ragazzi, ma a voi vi piace proprio lamentarvi, no, ma com'è? No, dai, ma a noi ci piace una volta eri più rocchettara, adesso sei diventata un po' più smucilenta, anzi che non ha messo Eddie Vedder, che insomma diciamoci la verità, ha rotto il cazzo. No! La verità, ha rotto il cazzo. Gli volevo bene, simpatico, bella voce, bella chitarra, il cazzo. Però ha rotto il cazzo. No. Comunque, detto Eddie questo, Eddie One of Us, se viene a casa mia, Eddie, gli faccio proprio, gli metto. Oddio, ho paura, non lo dico. Non lo stanno a dire perché, cioè, sono finite le famiglie naturali. Sembriamo insieme. Eddie è proprio il compagnone della vita. Ma che cazzo ne sai? Magari è un pezzo di merda. Non fa niente, no. Nel mio immaginario è tipo un compagnone. Comunque, la nostra intenzione è quella di far risuscitare questa puntata. Cercheremo e troveremo una collocazione temporale che sia più, insomma, perché la domenica pomeriggio capisco che magari la gente gente sta a fare i cazzi suoi, poi dobbiamo chiudere. La domenica pomeriggio ci piace. No, dobbiamo chiudere perché poi c'è la Lazio stasera, quindi non. Non si può, capito? Cioè, nel senso, una cosa. Se volete, comunque, andatevi a cercare Everything. Everything. No, no, la B, no. Allora, su tutto si può discutere perché io sono molto, molto, molto, molto, molto aperta. Bravo, ha rotto il cazzo, bravo. Ma è di vedere, non si discute. No, cioè, non si discute. Che poi non ultimamente esiste. Lo mettono d'apertura. Io prima non si sapeva manco chi eravamo, adesso sembra un per cazzo. Comunque, detto da noi. Su Facebook cercate Everything, think scritto come cosa, capito? Think come pensare, think, Everything, capito? Quindi andate a cercare questa nostra fantasia e fate mi piace alla pagina, se volete magari vi interessa faremo anche un gruppo Telegram, poi Michela probabilmente metterà su anche un Instagram, così sì, c'è un modo anche per, esatto, piano piano, dateci un attimo tempo che vorremmo sollevare questa cosa. Vi ricordo anche un altro progetto YouTube che è il progetto che facciamo io e Michela, che adesso we presto... want to live in a box. Esatto, we want to live in a box. Che dopo la prima serie di 10 episodi, la gente mi scrive e mi dice: sì, ma che cazzo, cioè, nel senso, di che state a parlare? Perché se... ancora non ci hanno cacciato di casa, quindi nel box non ci vivevo. Esatto. Però poi lo spiegheremo in questa stagione. Spiegheremo il senso di we want to live in a box. We want to live in a box. Quindi cercate su, andate su YouTube, cercate we want to live in a box e vi iscrivete. E siamo noi che racconteremo. Cadenza di questa nuova stagione Lobby. Perché ci fai queste domande? Questo è un po' presto. Allora noi. Questa è una sorta di pilota che non buttiamo. Allora là, noi dai. No, però vi promettiamo che entro le prossime due settimane. Due settimane torniamo. Mo' vediamo di stabilire il giorno. Allora, l'idea, anche se a me la domenica mi piace molto. L'idea sarebbe quella di fare un episodio a settimana. L'idea sarebbe. Il problema è, come abbiamo detto, trovare la collocazione temporale. Perché sa, la domenica pomeriggio non ci sta nessuno. La gente va a fare passeggiate, vengono belle giornate. C'è la Lazio, ragazzi, non si può, no? Vabbè, la Lazio finirà di romper cazzo prima o poi sta Lazio. Ma guarda che cioè, mica è di vedere la Lazio. La Lazio dura per sempre, cioè sta lì da 119 anni. Quindi non anche romper che cazzo. Di vedere calcerà 119 sì, anni. Di vedere buono, se ancora non si è suicidato, ma secondo me. No. A cazzarella, no. Sì, a cazzarella vince sempre. Non lo so. Quindi. Non vorremmo, però, allora dicevo che noi comunque siamo arrivati e tornati perché sentivamo veramente l'esigenza di rompere palle. Sì, guardavamo la televisione e dicevamo che schifo, guarda che schifo. E allora dobbiamo dire la nostra perché che schifo. Ma sicuramente ci sarà qualche cosa nell'inframezzo. Cos'è l'inframezzo? Per quanto riguarda il trono di spade che sta per tornare, quindi... ma sì, in realtà ci sarebbero tante cose da fare, però noi non abbiamo, lo posso dire, non abbiamo più le energie dei 7 anni, 8 anni, 9 anni fa, quindi... poi io mo c'ho i cani, quindi c'ha i cani, ha rotto il cazzo e sta dicendo no, perché poi sta cosa dei cani una volta ogni 2-3 settimane, infatti sì, questo mo ma sono così belli, mo stava a cucina, stava a macellare fegato, cioè, tra l'altro cosa, ragazzi, schifo. oggi ho preparato delle pappe strepitose. C'è qualcuno che parla? No, è Alexa che parla. Ah, Alexa, dai. Scusate, mi ha messo quasi paura. Quindi offriti a pagamento preparatrice per pappe professionista. Tra un po' diventerò quello. Vabbè, tanto Alexa continua a parlare di là, mentre che perché noi non chiudiamo le porte degli studi, non ci frega niente. Alexa che ha sicuramente registrato e mandato a Salvini il nostro disprezzo per il suo operato e anche per la sua persona, diciamoci la verità, certo. Insomma, un pochino. Vabbè, io stasera poi mi guarderò. Comunque, ricostruiremo appunto tutta la parte social, per ora ci trovate su iTunes, poi ci troverete anche su altri sistemi, insomma, per ora sta nel gruppo Runtime di Spreaker Everything, ricordate, fate là, abbonatevi, scaricate le puntate, da domani sarà disponibile la versione quella, insomma, quella che si scarica, insomma, quindi detto questo io direi che per questa prima puntata abbiamo anche molto di più di quanto mi sarei aspettato, devo dire. Però mosso le 20 e fra 40 minuti c'è la partita, quindi io voglio bene a tutti. Allora, noi per rompere i coglioni a Salvini fino alla fine. Tra l'altro, ciao poi... Davide, ho visto che è apparso Davide. Sì, poi... Davide è apparso di corsa, perché proprio non ce la facciamo e siamo stati felicissimi non di aver visto Sanremo, perché praticamente non l'abbiamo visto. Forse l'ultimo giorno era il giorno del tuo compleanno, qualcuno ci ha costretto a guardare qualcosa, però... l'abbiamo visto così distrattamente. Siamo felici che una certa